входе в тех город Владикавказ, Архонское шоссе, 6 километр, на заправке поворот Цветокосный. Cicù, canale 10, c'è qualcuno all'ascolto? Sì, semplicemente. E avanti? Oh, dimmi tu. Perché c'ho il televisore in mezzo alle balle? Aspetta un attimo. Avanti, Luca. Ti sento basso, come mai? Anche il segnale è basso. Guarda adesso. Però perché l'antenna era commutata. Già sei tu. Ho detto, sto facendo il lavaggio a quei pomelli, ti ho mandato anche la foto, a quei pomelli, e adesso sto facendo le maniglie del Saturnecco. Perché il Saturnecco c'hai? No, di un amico che lo sto restaurando, e pulendo tutto quanto, e le sto facendo il lavaggio dei pomelli e delle maniglie e delle viti, K. Ce l'ha anche un amico mio quella lavatrice così. È comoda, Natali, ti ne buca, sono macchine, te ne buca con gli ultrasuoni, capito? Qualsiasi cosa che non riesce a pulire con spazzolini o detergenti, 5 minuti di ghiaccio di nevo che le macchine buono. Già lo so, quella andrebbe bene per pulire i bossoli della pistola. C'è gente che le lava con quella, io ce l'ho con la sabbia, è diversa quella che ho io. Se vuoi fare un lavaggio a fondo, dammeli, te li metto qua. Poi non ne sto più caricando, faccio prima a comprarmeli. Prima già me li caricavo, perché quando andavo ne sparavo un sacco e quindi non mi conveniva a comprarli, capito? E invece quando li sparavo li raccoglievo e poi me li ricaricavo. Lo fanno molti, sì. Anche i cacciatori. Mio nonno lo vazia con i gasciucci, ma c'aveva tutta l'attrezzatura per caricarle, il macchinario. Poi si comprava da quello che c'era in Viale Sicilia, se non sbaglio. Si comprava tutto il sughero, le palline, la polvere da spalle, se caricava ecco. Sì, sono molti che lo facevano. Ma sono tutti in plastica, gli si gasciucci e non so quanto convenga ricaricarlo. Invece quelle che ho io sono in ottone, no? E le ricaricavo io. Mettevo la polvere, la palla nuova, c'ho la pressa, io tutto per farlo. No, mio nonno faceva quelle di cartone, perché all'epoca si usavano parecchio quelle di cartone, e le raccoglievano e se le ricaricavano loro. Ma è di quando anziani usai, no? Prima si andava parecchio, a caccia si sparava parecchio, ma un bel, ma va, tanta cosa va. Sì, lo so, anche ai miei tempi ce n'era e si sparava, però io me le compravo in cassone in aggiuparando pochi buci, ce le avevo quelle in plastica, prendevo io. Sì, poi sono uscite quelle in plastica, mi sembra che non ne vendano neanche più di cartone, perché avevo letto un annuncio, un cacciatore che le stava cercando a pagare quelle vuote in cartone, che puoi immaginare. E a chi non ne vagini più di ghissi, non ne gargheggiano più, che si rigargava si ridimia baedu, e in cartone non ce n'è più. Io ce l'ho il calibro 12, lo stesso, e ce l'ho in coso, in plastica, le carte. Sì, a che va oggi, Romy? Adesso quando finisce lì ci rimetto i pomelli, l'ho già pulito dentro, ho fatto un po' di revisione e dopo lo provo. Adesso finisco il lavaggio delle maniglie e così dopo monto tutto, metto il coperchio e lo provo. Che era. Ancora non mi è arrivato chissà cosa. Nell'email non te l'hanno mandato il codice? Sì, l'hanno già spedito, ma no, ancora no, non arrivi nulla, mi arriverà domani. Vabbè, guarda, dove se al lab di lì Bologna arriva domani, se io Gelli controlla tramite il codice, me lo sai. Sì, comunque domani. E a Bari era, al lab di Bari. Comunque ti arriverà domani senz'altro, ci mette 2-3 giorni, perché qua ci metti di più a arrivare, capito? E lo so. Cava. Ok, adesso la faccio finire, è così. Lascia qua, ciao, a dopo. Ciao. Chi è? Natale, Luca sono. Beh, sto provando quell'apparato. Già sta uscendo bene. Va bene, allora, qui è tutto così. Vediamo un po', aumentando qua. Oh, prova, sì. Yes. La pompa, va bene. Yes, cosa? Va benissimo. Via, che ragava. Tutto a posto, regolare. Anda bene, mela. Natalino. Via. Si sente, c'è il bip. Che c'è quello? Ok, perfetto.